Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrère. Traduzione di Francesco Bergamasco. Non intendo tenere una lezione sulla perestroica, ma devo insistere su un punto. In quei 6 anni, la cosa davvero straordinaria in Unione Sovietica, quella che si è tirata dietro tutto il resto, è stata la possibilità di fare storia liberamente. Nel 1986 ho pubblicato un breve saggio, Les Détroits de Bering, il cui titolo deriva da un aneddoto che mi aveva raccontato mia madre. Dopo che Beria, a capo dell'NKVD sotto Stalin, era caduto in disgrazia ed era stato giustiziato, fu data a disposizione ai sottoscrittori della grande enciclopedia sovietica di ritagliare dalla copia di loro proprietà la voce encomiastica dedicata a quel fervido amico del proletariato per sostituirla con una voce della medesima lunghezza sullo stretto di Bering. Beria, Bering. L'ordine alfabetico era salvo, ma Beria non esisteva più. Non era mai esistito. Allo stesso modo, dopo la caduta di Khrushchev, le biblioteche dovettero lavorare di forbice per eliminare una giornata di Ivan Denisovich dai vecchi numeri della rivista Novi Mir. Il potere sovietico si arrogava il privilegio che San Tommaso d'Aquino negava a Dio: fare che ciò che era stato non fosse stato. E non a George Orwell, ma a Piatakov, un compagno di Lenin, si deve questa frase straordinaria: se il partito lo richiede, un vero bolscevico è disposto a credere che il nero sia bianco e il bianco nero. Il totalitarismo, che sotto questo aspetto decisivo l'Unione Sovietica ha portato ben oltre la Germania nazionalsocialista, consiste nel dire alle persone che quello che vedono nero è bianco e nel costringerle non soltanto a ripeterlo, ma a lungo andare, né più né meno a crederlo. Da questo aspetto deriva la qualità fantastica dell'esperienza sovietica, allo stesso tempo mostruosa e mostruosamente comica, messa in risalto da tutta la letteratura clandestina, da Noi di Zamyatin a Cimi abissali di Zinoviev, passando per Il villaggio della nuova vita di Platonov. È un aspetto che affascina tutti gli scrittori disposti, come Philip K. Dick, Martin Amis o come me, a sorbirsi biblioteche intere su ciò che è accaduto all'umanità in Russia nel secolo scorso. Ed è stato così riassunto da uno degli storici di quel paese che più apprezzo, Martin Maglia: il socialismo integrale non è un attacco a determinate storture del capitalismo, ma alla realtà stessa. È un tentativo di sopprimere il mondo reale, un tentativo a lungo termine destinato a fallire, ma che per un certo periodo riesce a creare un mondo surreale fondato su questo paradosso: l'inefficienza, la povertà e la violenza sono presentate come il bene supremo. La soppressione della realtà passa attraverso quella della memoria. La collettivizzazione delle terre, l'assassinio o la deportazione di milioni di kulaki, la carestia pianificata da Stalin in Ucraina, le epurazioni degli anni 30 o gli altri milioni di russi uccisi o deportati in modo assolutamente arbitrario, non era mai accaduto nulla di simile. Naturalmente un ragazzo o una ragazza che avesse avuto 10 anni nel 1937 sapeva benissimo che una notte erano venuti a portarsi via suo padre e che poi nessuno lo aveva più rivisto. Ma sapevano anche che non bisognava parlarne, che essere figli di un nemico del popolo era pericoloso, che era meglio fare come se non fosse mai successo. Così un intero popolo faceva come se non fosse mai successo e imparava la storia sul breve compendio che il compagno Stalin si era preso il disturbo di scrivere personalmente. Solzhenitsyn lo aveva annunciato: appena si comincerà a dire la verità, verrà giù tutto. Non era certamente questo che aveva in mente Gorbaciov, il quale pensava piuttosto a una politica di concessioni mirate da tenere comunque sotto controllo, quando, in un discorso per il 70° anniversario della rivoluzione di ottobre, pronunciato davanti a tutti i dignitari del comunismo mondiale, Honecker, Jaruzelski, Castro, Ceausescu, Daniel Ortega, presidente del Nicaragua, tranne Castro, negli anni successivi sarebbero caduti tutti quanti, in gran parte a causa di quel discorso, aveva lanciato la parola glasnost, che significa trasparenza, e dichiarato l'intenzione di colmare le lacune della storia. Certo, in quell'occasione aveva detto che le vittime dello stalinismo erano state centinaia di migliaia, mentre si trattava di decine di milioni, ma comunque il segnale era stato dato, il vaso di Pandora aperto. Nel 1988 è diventato accessibile a tutti ciò che prima circolava solo all'interno dell'elite intellettuale, sotto forma di samizdat o di edizioni straniere importate clandestinamente, e una smania di leggere si è impossessata dei russi. Ogni settimana veniva pubblicato un nuovo libro fino allora proibito, e le tirature altissime andavano ben presto esaurite. Si vedeva la gente fare la fila all'alba davanti ai chioschi e poi leggere come invasata nel metro, in autobus o anche camminando per strada quello che aveva acquistato facendo aggomitate con gli altri. A Mosca, per una settimana, tutti leggevano il dottor Zhivago e non parlavano d'altro. La settimana dopo toccava A vita e destino di Vasily Grassman e quella dopo a 1984 di Orwell o ai libri del grande pioniere inglese Robert Conquest, che già negli anni 70 aveva raccontato la storia della collettivizzazione e delle epurazioni, venendo per questo tacciato di essere un agente della CIA da tutti i compagni di strada occidentali preoccupati di non deprimere il morale del proletariato. Un gruppo di dissidenti fondava con il patrocinio di Sakharov l'associazione Memorial, che, un po' come Yad Vashem a Gerusalemme, si è dedicata da allora in poi a realizzare il desiderio espresso da Anna Akhmatova in Requiem. Vorrei, tutti quanti siete, chiamarvi per nome. L'obiettivo era dare un nome alle vittime della repressione, che non erano state soltanto uccise ma anche cancellate dalla memoria. All'inizio Memorial esitava a usare la parola milioni, poi ha fatto il passo e allora è stato come se tutti lo avessero sempre saputo e aspettassero solo il diritto di dirlo a voce alta. Il paragone fra Hitler e Stalin è diventato un luogo comune. Per essere sicuri di avere successo in un dibattito bastava ricordare la teoria del 5% formulata dal piccolo padre dei popoli. In sostanza, si può considerare già un buon risultato se in tutta la massa degli arrestati anche soltanto il 5% è colpevole. O citare la frase del suo commissario alla giustizia, Krylenka: non bisogna eliminare soltanto i colpevoli, eliminare gli innocenti fa molta più impressione. Lo stesso Alexander Yakovlev, il principale consigliere di Gorbaciov, ha ricordato in un suo discorso che era stato Lenin il primo uomo politico a usare le parole campo di concentramento. Tale discorso è stato pronunciato in un'occasione quanto mai ufficiale, il bicentenario della Rivoluzione francese, cioè neanche 2 anni dopo quello con cui Gorbaciov aveva dato il via alla glasnost, il che rende l'idea di quanta strada era stata fatta e a quale velocità. Sempre Yakovlev, lo stesso anno, si è presentato in televisione per spiegare che il decreto con cui venivano riabilitate tutte le vittime delle repressioni dopo il 17 non era affatto, come sostenevano i membri del partito, un provvedimento di clemenza, ma di pentimento. Noi non li perdoniamo, noi chiediamo loro perdono. Lo scopo di questo decreto è riabilitare noi stessi, noi che siamo rimasti in silenzio e abbiamo distolto lo sguardo rendendoci complici di questi delitti. Insomma, era diventata opinione comune che il paese fosse stato per 70 anni in mano a una banda di criminali. È stata la liberazione della storia a determinare il crollo dei regimi comunisti dell'Europa dell'Est. Non appena è stata ammessa l'esistenza del protocollo segreto del patto Molotov-Ribbentrop, con il quale nel 1939 la Germania nazista aveva ceduto sotto banco ai russi gli stati baltici, questi disponevano di un argomento inoppugnabile per rivendicare l'indipendenza. Bastava dire: l'occupazione sovietica era illegale nel 1939 e lo è ancora 50 anni dopo, andatevene. Un tempo l'URSS avrebbe risposto ad argomenti simili mandando i carri armati, ma quell'epoca era finita. E così il 1989 è diventato l'anno miracoloso dell'Europa. Quello che Solidarnosc in Polonia aveva ottenuto in 10 anni, gli ungheresi lo hanno raggiunto in 10 mesi, i tedeschi dell'est in 10 settimane e i cechi in 10 giorni. Tranne che in Romania nessuna violenza. Rivoluzioni di velluto, che nel tripudio generale portavano al governo protagonisti della cultura come Václav Havel. La gente si abbracciava per strada. Gli editorialisti discutevano con la massima serietà la tesi di un professore americano che annunciava l'avvento della fine della storia. Tutti i piccoli borghesi dell'Europa occidentale, me incluso, sono andati a trascorrere il Capodanno a Praga o a Berlino. A Parigi c'erano 2 persone che non si univano al tripudio generale, mia madre e Limonov. Mia madre era felice per lo sgretolamento del blocco sovietico, sia perché lo avversava in quanto figlia di russi bianchi, sia perché lo aveva previsto, ma non sopportava che il merito venisse attribuito a Gorbaciov. Secondo lei, tutto accadeva a suo malgrado. Penso che mia madre avesse ragione, ma che sia proprio questo a fare di Gorbaciov una figura storica tanto affascinante. Gorbaciov non era un liberatore. Si limitava a lasciare che gli altri lo prendessero in parola. Si faceva forzare la mano e frenava per quanto poteva un processo che aveva messo in moto per imprudenza. Era insieme un apprendista stregone, un demagogo e un bifolco, che colmo di ineleganza agli occhi di mia madre parlava un russo spaventoso. Su tutto ciò Eduard era d'accordo con lei. La popolarità di Gorbi, come dicevano quelli che cominciavano a chiamare Mitterrand zio, gli aveva dato fastidio fin dall'inizio. Il capo dell'Unione Sovietica non deve piacere a quegli stronzetti di giornalisti occidentali, deve fargli paura. Quando alcuni amici ingenui gli dicevano «che tipo formidabile, sarai contento», Eduard li guardava come un cattolico di stretta osservanza guarderebbe chi si congratulasse con lui per l'elezione a papa di un teologo della liberazione. Non gli piaceva la glasnost, né che il potere recitasse il mea culpa, e meno ancora che per riuscire gradito all'Occidente esso abbandonasse i territori conquistati con il sangue di 20 milioni di russi. Non gli piaceva vedere Rastrapovich, ogni volta che veniva giù un muro, accorrere con il suo violoncello e suonare con aria ispirata le suite di Bach sopra le macerie. Non gli piaceva trovare in un negozio di articoli militari d'occasione un cappotto da soldato dell'Armata Rossa e accorgersi che i bottoni di ottone della sua infanzia erano stati sostituiti da bottoni di plastica. Un particolare, ma un particolare che secondo lui diceva tutto. Quale immagine poteva avere di se stesso un soldato ridotto a indossare divise con bottoni di plastica? Come poteva combattere? A chi poteva fare paura? Chi aveva avuto l'idea di sostituire il lucido ottone con quella merda fabbricata in serie? Certo non l'alto comando, forse uno stronzo di civile chiuso nel suo ufficio che aveva ricevuto l'incarico di ridurre le spese. È così che si perdono le battaglie e crollano gli imperi. Un popolo i cui soldati sono infagottati in divise a buon mercato è un popolo che non ha più fiducia in se stesso e non ispira più rispetto ai vicini. È un popolo che ha già perso. La sua amica Fabienne Sartel, la regina delle notti parigine, gli ha detto «C'è uno che voglio farti conoscere, un pazzo totale, un vero bastian contrario». E ha organizzato alla Brasserie Lip un pranzo con Jeanne Dernalier, che aveva da poco rilanciato l'Idiot International. Un precedente Idiot era stato fondato 20 anni prima con il patrocinio di Sartre. Era un foglio 68 e i redattori sospettavano che il loro capo, rampollo di una famiglia bene, guercio, esuberante, con un vero talento per seminare zizzania, fosse un provocatore al soldo della polizia di Pompidou. Una delle imprese di Jeanne d'Arne, che Fabienne ha raccontato a Eduard intuendo che lui l'avrebbe apprezzata, era stato un viaggio in Cile per consegnare alla resistenza contro Pinochet il ricavato di una raccolta di fondi negli ambienti della sinistra radical chic. La resistenza non aveva ricevuto niente, Jean Edern era tornato in Francia a mani vuote e nessuno ha mai saputo che fine avesse fatto il denaro. Lo stesso Jean Edern aveva poi provato a calarsi nelle vesti del grande scrittore e cercato di ritagliarsi uno spazio adatto a lui da qualche parte tra il suo amico Philippe Soyer, con cui in passato aveva fondato Tel Quel, e il più giovane Bernard-Henri Lévy, a cui invidiava la bellezza e il successo precoce. Anche Jean Edern avrebbe potuto essere bello. Era ricco, aveva una Ferrari e un appartamento in Place des Vosges, ma c'era dentro di lui un pagliaccio amaro e autolesionista che boicottava l'opera delle fate buone che si erano chinate sulla sua culla. Jean Edern aveva una venerazione per gli eremiti come Julien Gracq, che era stato suo professore, ma si dannava per comparire in televisione. Tutti quelli che lo hanno conosciuto e anche amato ne ricordano gli slanci di generoso affetto alternati a momenti in cui si spalancava il baratro della sua anima invidiosa. E allora ti sembrava di sporcarti solo a stargli vicino. Anche di lui Brodsky avrebbe potuto dire che ricordava, più che Dostoevsky, il suo terribile personaggio Svidrigailov. Ma lui era uno Svidrigailov pieno di grinta, che si trascinava dietro cuori, fallimenti, scandali, e che Mitterrand, così orgoglioso della propria cultura e della propria competenza in fatto di letteratura, non esitava a definire un grande scrittore. Tant'è che nel 1981 Jean Edern si era speso senza riserve per sostenerlo, confidando in una ricompensa, un ministero, un canale televisivo, che non era arrivata. Da un giorno all'altro era diventato nemico giurato del nuovo presidente e aveva propagato dei pettegolezzi che oggi vengono liquidati con leggerezza come segreti di Pulcinella, anche se non credo che lo fossero. Io comunque nero all'oscuro. Gli amici collaborazionisti, il cancro, la figlia naturale. Si è saputo in seguito che gran parte del lavoro della cellula antiterrorismo dell'Eliseo consisteva nell'ascoltare le conversazioni di Jean Dernalier, quelle dei suoi conoscenti e persino le chiamate in partenza dalla cabina telefonica della Closerie de Lila, dove Jean Edern era di casa. Sempre lui aveva messo in circolazione a Parigi un pamphlet, il cui titolo originario, Lo zio e Mazarin, era diventato in seguito L'onore perduto di François Mitterrand. Nessuno aveva il coraggio di pubblicarlo. A Jean Edern serviva un giornale. Così era nato il secondo Idiot, intorno al quale il fondatore aveva radunato un gruppo di scrittori rissosi e brillanti, a cui non chiedeva altro che di scrivere qualsiasi cosa venisse loro in mente, purché scandalosa. Gli insulti erano benvenuti e le diffamazioni raccomandate. Se c'erano dei processi, se ne occupava personalmente il direttore. Venivano attaccati tutti i favoriti del principe: Roland Dumas, Georges Kiechmann, François Giroux, Bernard Tapie, i notabili della sinistra che si erano riempiti la pancia, e tutto ciò che di lì a poco sarebbe stato definito politicamente corretto e ha rappresentato l'ideologia dominante del secondo settennato di Mitterrand. SOS Racisme, i diritti umani, la festa della musica. Il grande spregiatore di questo mondo, Philippe Muret, è stato orgoglioso fino all'ultimo dei suoi giorni di aver subito, a colpi di raccolte di firme e comitati di vigilanza, le denunce dei lacchè intellettuali, come Muret chiamava Pierre Bourdieu, Jacques Derrida e il capo dei delatori Didier Denens. Il merito principale dell'idiot, diceva questo corifeo del negativo, era stato di aver costretto i propri nemici a rinchiudersi nell'angolo del bene. All'idiot erano contro tutto ciò che era a favore e a favore di tutto ciò che era contro. Con un unico credo: noi siamo scrittori, non giornalisti. Le nostre opinioni, per non parlare dei fatti, sono meno importanti del talento con cui le esprimiamo. Lo stile contro le idee. Vecchia antifona risalente a Barès, a Céline, e che trovava il suo cantore ideale in Marc-Édouard Nabe, la pestifera prima penna dell'idiot, capace di chiedere e ottenere il titolo «L'abbé Pierre è una carogna». Ma poiché al mondo c'è sempre qualcuno di più perverso di te, Nab, che un giorno aveva scritto un articolo violentissimo contro Serge Gainsbourg, l'ha presa molto male quando Allier ha ripubblicato il pezzo, senza il suo consenso, e definendolo ignobile il giorno dopo la morte del cantante. Io questa avventura me la sono persa, come mi sono perso il Palace. Dopo il triste periodo dei costumi da bagno, avevo pubblicato qualche libro e trovato rifugio in una famiglia molto diversa, quella degli autori che pubblicavano per case editrici come P.O.L. o l'Edition des Minuit, di cui aveva adottato i valori, più estetici che politici, in virtù dei quali non provavo nemmeno curiosità verso quello che, da lontano e senza che avessi mai comprato una sola volta l'Idiot nei suoi 5 anni di vita, mi appariva come un gruppo di casinisti. Intanto loro facevano gruppo, e il mio riuniva persone per le quali il non uscire in gruppo era un punto d'onore. Noi volevamo essere solitari, appartati, incuranti della luce dei riflettori e dell'apparire. I nostri eroi erano Flaubert, il Bartleby di Melville, che a qualsiasi domanda rispondeva «I would prefer not to», Robert Walser, morto nel candore ideale della neve svizzera dopo essersi chiuso per 20 anni nel silenzio, tra i muri di un ospedale psichiatrico. Molti di noi erano in analisi. Io avevo stretto un'amicizia che dura tuttora con Echenoz, di cui ammiravo i libri e l'impeccabile atteggiamento che aveva scelto. Riservatezza lievemente ironica, ironia lievemente malinconica. Con lui non si correva certo il rischio di crogiolarsi nell'enfasi e nell'abuso di aggettivi. Guardavamo quelli degli Idiot più o meno come nel metrò si guarda un'orda di tifosi del Paris Saint-Germain strafatti di birra e pronti alla rissa. E loro dovevano guardare noi come una setta di parnassiani esangui e supponenti. Ma anche questo è esagerato. La verità è che non ci filavamo proprio, che non esistevamo nemmeno gli uni per gli altri. Torniamo al pranzo da Lip. Sovraeccitato, con i capelli scarmigliati, l'estremità della sciarpa bianca a mollo nel piatto, Jean Edern ha raccontato a Edouard come ha perso l'occhio. È stato un proiettile russo a Berlino, dove il padre, il generale Allier, prestava servizio alla fine della guerra. Pure semplice balla. Di quell'incidente esistevano varie versioni a seconda degli interlocutori. Allier se ne serviva per sedurre, e lui e Limonov si sono intesi a meraviglia. Ciascuno dei due aveva la propria bestia nera, che lasciava l'altro indifferente. Ma Edouard ha educatamente convenuto che Mitterrand era un frabutto e Allier che Gorbaciov non era da meno. «Senti, dovresti scriverlo». Edouard non chiedeva di meglio. Bastava soltanto trovare un traduttore. «Non servono traduttori. Capisco quello che dici, capirò quello che scrivi». Così Edouard ha cominciato a scrivere in francese e a partecipare alle riunioni del comitato di redazione dell'Idiot, che si tenevano nel grande appartamento del direttore in Place des Vosges. Si cominciava a bere vodka alle 10 del mattino e si finiva all'alba del giorno dopo. Quando si faceva sentire la fame, Louisa, la governante di Jean Edern, preparava un piatto di pasta per tutti. Oltre a quelli che scrivevano materialmente le 8 pagine settimanali dell'Idiot, c'era un via vai di tipi di ogni genere, che piantavano le tende e litigavano, mentre il padrone di casa, anziché calmarli, godeva a esacerbare gli animi. Era il suo divertimento e il carburante del suo giornale. La prima volta che Edouard è andato in Place des Vosges, ha trovato Patrick Besson, Marc-Edouard Nab, Philippe Soyer e Jacques Verge. Era atteso anche Le Pen, invece alla fine è arrivato il sindacalista comunista Henri Grazucchi. Soyer si è seduto al piano e tutti hanno cantato l'Internazionale. Gabriel Masneff si è dichiarato lieto di leggere accanto all'articolo in cui lui stesso tesseva gli elogi di Michel Gorbachev, secondo la grafia a cui teneva molto, quella in cui Limonov invocava per lo stesso Gorbachev la corte marziale e poi 12 pallottole in corpo. Masneff, fedele alla sua leggenda, ha spinto l'eleganza fino a congratularsi con il giovane collega per i suoi progressi nel francese. Edouard ha cominciato a partecipare con regolarità alle riunioni da Jeanne d'Arc, tanto più che abitava lì accanto. Qualche volta portava con sé anche Natasha e si sentiva sempre più a suo agio. Estrema destra ed estrema sinistra si ubriacavano fianco a fianco e la convivenza fra le opinioni più contraddittorie veniva incoraggiata senza che si ponesse mai il problema di affrontare una cosa tanto volgare come il dibattito. I collaboratori si scambiavano dritte sul modo migliore per farsi pagare da Jeanne d'Arc. Con una mano gli dai l'articolo, con l'altra prendi le banconote, tecnica Soyer. Venivano alle mani con lui, rompevano e si riconciliavano. Di notte staccavano il telefono perché Jeanne d'Arc soffriva di insonnia e aveva l'abitudine di chiamare alle 5 del mattino. Il tipografo non veniva pagato e gli avvocati nemmeno. I creditori facevano anticamera, fioccavano i processi per diffamazione. Nessuno sapeva cosa ci sarebbe stato nel numero successivo. Grazie anche allo sfondo di Place des Vosges, Edouard poteva credere di trovarsi nei Tre Moschettieri, che tanto aveva amato da adolescente, e vedere in se stesso un D'Artagnan della penna, elevato a membro di quella compagnia di franchi bevitori e spadaccini, da uno strampalato feudatario che somigliava a Porthos per gli eccessi, ad Aramis per i fallimentari intrighi e, a ben guardare, persino ad Athos per la malinconia di fondo, per via della quale gli veniva perdonato tutto. Nella vita, pensava Edouard, bisogna avere un gruppo, e a Parigi non ce n'era uno più vivace.